fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Buonasera ragazzi, noi siamo in diretta con Resto Radio Convento e sono in compagnia di due bellissimi ragazzi. Come si chiamano? Ale, Massimiliano. Massimiliano, da dove venite ragazzi? Vicenza. Da Padova, però mi sono trasferito a Vicenza, quindi ormai sono vicentino. Ottima scelta! Ha già detto tutto il tuo amico, eh? Salottino, salottino. Sì? Vicenza, salottino del Veneto. Vabbè, l'importante è se bere comunque. Sì, allora, cosa state festeggiando stasera? Chi si sposa dei vostri amici? Io mi sposo tra poco. Ah, sei tu lo sposo? Certo. Certo. E quando è la data, te la ricordi? Tra pochissimo, fiori. Tipo? Quando? Inizio giugno. Inizio giugno. Tipo 4? Non posso dire la data precisa, sennò troppa gente si presenta, sì, dopo sì, devo pagare. Si imbucano al matrimonio, si imbucano, sì, sì, sì, sì. E tu sei il testimone o l'amico? Testimone, il 4 giugno. 4 giugno, sei pronto a testimoniare questo matrimonio? No, ho ancora a farmi il vestito. Sì, ma no del mio, dell'altro. Sì, dell'altro ovviamente. È giusto, giusto. Va ben tutto qua. Vabbè. E un'altra cosa ragazzi, avete trovato qualcuno in particolare fuori che vi ha fatto diciamo ridere o divertire al di fuori del vostro gruppo? Ma un sacco di gente carina, un sacco di gente interessante, un sacco di gente simpatica. Tu invece? Sì, tanta roba. Tanta roba. Cioè, gli altri siamo partiti tipo Lonigo, diciamo, per conoscenza. Abbiamo fatto 3-4 ore a Desenzano, fare aperitivo, poi là dopo siamo venuti qua, mangiare bene tutto quanto, festa, col pullman ovviamente, col pullman, è bello qua comunque, no, sì. È la prima volta, organizzato bene, tutto quanto, complimenti. Ci sta. Allora, tu testimone, allora, poiché sei tu il testimone, qui fuori non è entrato un amico che vedo qui fuori vi stanno, sì, aspettando. Volevo chiamare dentro un testimone che però non vuole entrare perché è timido, faccio io un annuncio. Dimmi tutto. Volevo salutare i ragazzi della compagnia di Vicenza Castelgomberto, in particolare Zittone, Ronnie Cracco, Michelone e Fabri, che sono qua a far casino in giro al convento. Va bene ragazzi, ma non sei curioso di fare qualche domanda al futuro sposo? Qualche domanda un po' più piccante? Che sei curioso di sapere? No? Non sei interessato a nulla? Non ti interessa nulla? Bisognava portarlo... È lui. Dai, fammi sentire cosa sei curioso. Bisognava portare una donna? Anche più di una. Come si chiama la sposa? Vediamo come si chiama. Non posso condividere queste informazioni riservatissime perché dopo arriva un sacco di gente. No, però vedo la Zito che sta ballando con una donna e quindi questo mi fa piacere. Ma si chiama Zito perché Zito? Zito di nome di fatto, sì. In tutti i sensi. In tutti i sensi, sì. Va bene, dai ragazzi. Io vedo che vi stanno aspettando fuori. Vi lascio andare. Abbiamo il karaoke. È stato un piacere, ragazzi. Grazie mille, sei fantastico. Alla prossima.